Io sono di New York e poi loro mi hanno mandato una scheda elettorale qua a Milano, ho votato e l'ho mandata per posta. Da quello che ha avuto modo di capire, la comunità italiana in Italia si è espressa più a favore di Obama o di McCain? Assolutamente per Obama, sì. C'è una qualche ragione particolare che li porta a preferire Obama? Non posso parlare per la comunità, ma io posso parlare per me. Secondo me lui ha una politica molto accogliente e poi è una politica per il futuro, perché c'è l'appoggio della gioventù, degli anziani, delle classi sociali diverse. Secondo me rispecchia la diversità degli Stati Uniti in un modo molto molto profondo. Lei è un avvocato e anche Obama ha come sua professione di partenza quella di essere un avvocato, però da quello che ho capito non è l'unico elemento in comune che avete. No, infatti lui si è laureato da Harvard Law School, anch'io. Sì. Siete quindi, avete frequentato le stesse scuole? Sì, infatti. E ci vuole dare qualche chicca, qualche suo ricordo di Obama da studente? No, lui è molto più vecchio di me, però ho sentito di lui molto perché era anche famoso come un personaggio molto prima. Cioè già dai tempi del college in qualche modo si stava preparando a studiare per diventare presidente? Non lo so, però secondo me forse sì, forse lui è stato interessato dalla politica, però non posso parlare perché noi non abbiamo frequentato la scuola insieme. Che effetto le fa ora, visto che l'ha anche conosciuta, vederlo a passo dalla Casa Bianca? È proprio un passo tremendo per gli Stati Uniti e anche per il mondo. Cioè, lei gli fa piacere ovviamente. Sì, assolutamente. Un'ultima cosa le chiedo, si è parlato tanto del fatto che possa incidere sul voto, sull'incertezza del voto, il fatto che Obama sia di colore. Sì. Secondo lei che è una cittadina americana e che quindi conosce l'America, è una donna di colore anche lei, è un elemento che può davvero pesare? Sì, secondo me è un elemento, però io sono sicura che vincerà. È che a questo punto è necessario avere un cambiamento e lui rappresenta un cambiamento giusto.